Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Cecilia Cenciarelli, co-direttrice della 35esima edizione de Il Cinema Ritrovato a Bologna dal 20 al 27 luglio 2021. Ben trovata. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Per chi non conoscesse questa creatura, ce la racconti? È una creatura molto complessa, il cinema ritrovato. Intanto è il nome stesso, no? È ritrovato. Ritroviamo in questi 7-8 giorni in cui mostriamo quasi 500 film, ritroviamo il piacere del cinema, la bellezza, è una dimensione umana da visitare e abitare proprio dentro i film. Ritroviamo una prospettiva sul tempo e sull'uomo, sull'esperienza umana, se vogliamo, perché è un festival che mostra fin dall'inizio del cinema, dagli albori, quindi dal 1800 a oggi. Però per ritrovare bisogna perdere, no? E a me piace molto l'idea che il cinema ritrovato sia l'opposto di un viaggio organizzato, no? In cui si scende e si sale dai mezzi a comando. Quindi noi ogni anno tessiamo questo festival, che è proprio il prodotto del lavoro di un anno di tutti noi e di molti altri ricercatori e di curatori, tessiamo questo programma in modo che ci sia un vero senso di spaesamento. I programmi sono molti, durante la giornata vanno tutti in conflitto uno sull'altro per lasciare liberi gli spettatori di trovare i loro percorsi. Quindi magari quest'anno ci sarà qualcuno che seguirà tutto il magnifico omaggio a Robbie Schneider curato da Volker Schlondorf, per esempio, o la ricchissima rassegna Stevens, oppure che andrà un po' a zigzag, oppure che farà un misto dei due, quindi qualcuno che i primi giorni assaggerà un po' della mia collection, un po' di Aldo Fabrizi, un po' degli esordi al femminile dei paesi non occidentali, e poi magari scatta il colpo di fulmine e seguirà tutta la settimana un quarto programma in maniera del tutto imprevedibile. Io penso che in questo momento vivere questo spaesamento sia molto importante, proprio perché è un seguire un percorso tracciato e quindi poi questo ritrovare e lasciarsi veramente trasportare in questo viaggio. E il festival infatti è organizzato, segue due direttrici che sono la macchina del tempo e la macchina dello spazio, all'interno delle quali si snodano poi tutte le sezioni, insomma. E anche quest'anno è ricchissimo, ecco, il festival è ricchissimo, è su molte sale, quest'anno ancora più sale degli altri anni, quest'anno è l'anno precedente, quindi per assicurare comunque a tutti una visione assolutamente rilassata c'è stata un'espansione di sale e anche di sale all'aperto, perché tutte le sere in Piazza Maggiore, che è proprio il cuore della città, il cuore medievale e rinascimentale della città, in questa cornice veramente incantevole, su uno schermo di 26 metri, tutte le sere c'è un film restaurato, due sere con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro in una delle due, e poi le proiezioni tra l'altro sono in Piazza Maggiore poi per tutta l'estate, quindi prima e dopo il festival, e vanno avanti, ma c'è anche un'altra sala all'aperto, così per dire che invece è in un quartiere di Bologna, meno centrale, quindi accoglie un altro tipo di pubblico. Noi siamo proprio per una fruizione democratica del cinema, plurale, democratica e senza tempo, quindi per noi non ci sono film bianco e nero, muti, parlati, c'è il cinema a 360 gradi. E ci vengono a trovare molti ospiti, molti amici, da Isabella Rossellini che verrà a presentare il nuovissimo restauro che abbiamo appena compiuto con la Film Foundation di Martin Scorsese, di Francesco Giulare di Dio. Ci sarà Isabelle Huppert, ci sarà Nanni Moretti, ci sarà Paul Haggis che è sceneggiatore e regista di film come Million Dollar Baby, che è in una sezione un po' off, futuro, quindi c'è anche un cinema del presente, c'è una rassegna dedicata a un cinema indiano di cui conosciamo solo veramente la punta dell'iceberg. Ho già parlato di Romy Schneider, c'è un bellissimo omaggio ad Aldo Fabrizi con questo titolo Tolto al mondo troppo al dente, perché pare che sulla tomba di Aldo Fabrizi ci sia effettivamente scritto questo, Tolto al mondo troppo al dente, che è una frase di un componimento, di una poesia, di un divertissement che lui aveva scritto. Beh, la curiosità è quanti titoli saranno mostrati. L'ultimo aggiornamento era sui 460. Ecco, ci tengo a dire, perché fa veramente effetto questo numero, c'è da specificare che nel cinema ritrovato c'è una grande sezione dedicata al cinema di 100 anni fa. In questo caso quindi è il 1901, e quindi i film del 1901 sono lunghi anche un minuto, ecco, quindi quello è anche un titolo, ma sono veramente tantissimi. Le sale sono attive dalla mattina alle 9 e appunto le ultime proiezioni finiscono a mezzanotte, e abbiamo 6 sale, abbiamo proiezioni al carbone, abbiamo appunto l'orchestra, sì, sono tantissimi film. Sono il frutto di una grande ricerca, ecco, quando si parla di archivi a volte viene un po' l'effetto sbadiglio e polvere, ma in realtà gli archivi sono qualcosa di vivissimo, di pieno di vita, pieno di energia, si tratta solo di scoprirli, e il festival è anche il luogo che raccoglie il lavoro di archivisti davvero di tutto il mondo, perché nel mondo esistono quasi 200 cineteche, e in questi 35 anni si è creata una rete, perché la rete delle cineteche, ma anche quella rete dei rapporti che poi si costruiscono, dei rapporti umani, ecco, perché è un festival molto umano, cioè l'aspetto umano e delle relazioni, di progettare assieme qualcosa, è molto vivo ed è transnazionale, e quindi questi archivi portano a Bologna i loro nuovi restauri, archivi piccoli, archivi grandi, archivi davvero di tutto il mondo, e anche grandi fondazioni, le grandi major da Hollywood, appunto la Film Foundation di Scorsese, che è presente con più di 10 titoli, con cui lavoriamo da molti anni, l'Institut Lumière, Pathé, Gaumont, quindi è davvero anche in questo senso molto plurale, ecco. Un'altra curiosità, oltre al lavoro dei restauri, continuano ad esserci, immagino, anche ritrovamenti. Sì, iniziamo a imbastire il festival del prossimo anno già ai primi di settembre, quindi chiaramente rovistando negli archivi o anche durante progetti di restauro c'è sempre modo di trovare qualcosa di nuovo, di sconosciuto, che semplicemente è stato dimenticato o è stato magari sottovalutato da una certa critica in una tale epoca del cinema, ecco, perché poi la storia del cinema è anche molto, ovviamente, dico una banalità, legata alle varie interpretazioni dei critici del momento, quindi esiste delle pagine dimenticate, e la fragilità di questi film dimenticati è grande, come è grande la fragilità del loro supporto, quindi a volte il restauro è anche una chiave per espandere questo canone, no, del cinema, questa storia del cinema, o per dare voce a film o autori che altrimenti non sarebbero conosciuti o sarebbero dimenticati o non conosciuti all'interno dei territori nazionali, ecco. Ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Il programma è già suo, è già possibile prenotare, c'è anche una sezione di streaming che ovviamente non avrà dei 400 film, ma più o meno un decimo, è www.cinemaritrovato.it, e lì ci sono tutte le informazioni per accedere. Ovviamente abbiamo anche degli accrediti estremamente scontati per gli studenti, quindi sì, si possono trovare davvero lì tutte le informazioni sulle serate, anche il catalogo è già disponibile online, ecco. 35esima edizione del Cinema Ritrovato a Bologna dal 20 al 27 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Cecilia Cenciarelli. Un in bocca al lupo e a presto! Crepi, grazie mille e venite a Bologna! Francesco della fabbrica occupata autogestita Boccaccio 003 per presentare il documentario Uragano negli occhi, uno sguardo sulla Milano Hardcore Punk 2015-2020. Giovedì 22 luglio 2021 a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino. Francesco, ben trovato. Ciao, grazie mille intanto per avermi invitato e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori in onda. Di cosa si tratta? È un documentario, ma in realtà potremmo definirlo anche non solo un documentario. Infatti poi, per chi avrà l'occasione di venire al Forte alla presentazione, vedrà certo la proiezione del documentario, che è un po' anche la parte più succosa del pack di Uragano negli occhi, ma noi il documentario per esempio lo vendiamo allegato a due fanzine, una che guarda foto, che guardano sempre la scena punk di Milano dal 2015 al 2020, e l'altra di un altro grande componente di cui è sempre bene non dimenticarsi, cioè di flyer, che alla fine tanto lo fanno anche gli illustratori, i grafici che si mettono in campo ogni volta, quasi sempre ovviamente senza mai essere pagati, ma per passione, a fare i flyer per le serate, ecco, quindi Uragano negli occhi si potrebbe definire un film in zins, ecco, la nostra sottotitolo. Qual è il racconto? Noi siamo partiti dall'idea di voler rappresentare qualcosa di attuale, perché comunque sul punk spesso si tende un po' a storicizzare, volendosi concentrare su il passato, che è una cosa bella, diciamo, però noi pensavamo fosse già stato abbastanza indagato e ritenevamo invece forse più interessante dal nostro punto di vista, che comunque siamo abbastanza giovani, concentrarci invece su quello che effettivamente stavamo vedendo in quel momento. Era intorno al 2015-2016, ospitavamo un festival che si chiama 5 giornate Do It Yourself di Milano, che è un festival che viaggia all'interno di 4 spazi sociali diversi e poi il quinto giorno c'è un'occupazione temporanea, solitamente si faceva d'estate. Durante questo festival a un certo punto ci siamo accorti che c'era qualcosa di particolare in questa scena, cioè nel senso che iniziava ad esserci un sacco di gente nuova, poi c'era proprio un bello spirito, no? Perché non erano più solamente quel collettivo che organizza all'interno di quello spazio, ma era un momento in cui c'è tra persone anche con generi un po' diversi, no? Si passava dall'elettronica, magari più tecnopunk, a robe invece un pochino più meta, a robe più post-rock, cioè era proprio un momento in cui ci si metteva tutti insieme al di là del genere, ma era un po' lo spirito e l'amicizia, diciamo, a guidare. E quindi in quel momento ci siamo detti, certo che stiamo vivendo proprio una situazione un po' inedita e particolare per Milano. E quindi abbiamo preso la camera, abbiamo iniziato a filmare qualche concerto, e da qui l'idea poi iniziare a intervistare un sacco di gente. Ovviamente il nostro obiettivo non è fare un'enciclopedia del punk e raccontare sicuramente cos'è stato il punk negli ultimi 5 anni a Milano. Come tutte le fotografie, è una fotografia che è parziale, è quello che è il nostro punto di vista. Anche tantissimi band che abbiamo intervistato, e non tutte sono poi riuscite ad essere condensate nei 50 minuti del montato finale. Però ecco, abbiamo cercato di rappresentare quello che era un po' il nostro sguardo, anche da persone che comunque non sono esterni a questo posto, cioè noi siamo sempre stati sia a filmare, ma spesso tra un soundcheck e l'altro qualcuno fa il fonico, qualcuno suona, quindi anche uno sguardo interno alla scena, ecco. Cosa ha determinato secondo te, secondo voi, questa nuova ondata dalla partire dal 2015? Le spiegazioni possono essere molteplici. Milano è una città in cui passa un sacco di gente, per motivi che non c'entrano assolutamente nulla con il punk. Ci passa un sacco di gente per venirci a lavorare, oppure ci passa un sacco di gente per venirci a studiare. Di conseguenza, essendo una metropoli, catalizza parecchio. E quando uno arriva a Milano, infatti una gran parte anche delle persone che noi abbiamo intervistato, c'era proprio questa storia, no? Io sono arrivato a Milano, arrivavo da un paesino di provincia, eccetera, eccetera, o magari da altre città che avevano una meno offerta, e per me, cioè, catapultarmi in questa situazione è stato un buon motivo di mettermi in campo e in gioco, no? E quindi una parte può essere sicuramente questo, l'idea della grande città. Un altro motivo, perché dal 2015-2020 secondo me è che la scena punk è stata in grado un po' a Milano di anche, possiamo dire, aprirsi. Ho notato nelle tante interviste che facevo che in tanti dicevano siamo riusciti a non essere più un ambiente un po' escludente, ma anzi un ambiente che iniziava a diventare molto inclusivo, quindi dava l'opportunità a persone che magari non avevano un'attitudine estremamente punk, ma comunque di venire, appunto il discorso anche sui generi prima, no? C'è stata anche una grande apertura, non si è più iniziato a fare solo strettamente l'hardcore o il power violence, ma iniziavano ad esserci concerti in cui magari prima suonava un gruppo semi-pop, alla fine c'era un DJ set di musica elettronica e in mezzo c'era punk. Questo consentiva a persone anche che magari non hanno un'attitudine estremamente punk di venire, e poi quando vedi un concerto punk è difficile non divertirsi, ecco. E poi anche la questione appunto degli illustratori, che noi spieghiamo bene nel documentario, che negli ultimi anni c'è stato un po' questo ritorno all'illustrazione, no? Si è un po' abbandonata la scia della grafica fatta a computer e si è un po' ritornati all'illustrazione fatta a mano, soprattutto nell'ambiente punk, e anche questo ha permesso, visto, a tante persone che magari non avevano un'attitudine proprio punk, ma magari un pochino più artistica, di riuscire a trovare in questo ambiente, in questa scena, un ambiente in cui riuscivano ad esprimersi con le proprie capacità, ecco. Rispetto al punk storico, che immaginario ha quello di oggi? Per certi versi potrebbe essere simile, nel senso che alla fine l'idea di riuscirsi a costruire, nel documentario si usa questa parola, no? Spesso ci si dice, voi del punk siete un ghetto, no? Invece Martin, ad esempio, peggio dice, no, per me è un'oasi, no? Ecco, quindi un po' l'immaginario di riuscire a costruire la propria oasi al di fuori, in un ambiente che riesce ad uscire da quella che è la logica del commercio, la logica del capitalismo attuale, sicuramente è un immaginario che riprende quello che è storicamente nel punk. Oggi, secondo me, dei punti di differenza ci sono sicuramente per quel che riguarda forse l'apertura ai generi. Ecco, io noto sempre di più questa cosa, che il punk non è più solo la musica, cioè, il punk oggi, essere punk è anche un po' lo spirito, no? E quindi chi se ne frega se uno non fa esattamente quell'immaginario estetico, se non ha esattamente la cresta o le borti, ecco, che invece nel punk storico sembrano quasi obbligatorie, no? Nel punk di oggi io noto che tanti magari non sono esteticamente molto punk, ma perché poi quel che conta appunto è lo spirito, do it yourself, ecco. Per tutti i riferimenti ho visto che c'è un sito internet con l'omonimo titolo. Sì, www.uraganonegliocchi.it, poi abbiamo anche la pagina Facebook e pagina Instagram, per chiedere informazioni c'è una mail che è uragano@autoproduzioni.net. Il documentario Uragano negli occhi, uno sguardo sulla Milano Hardcore Punk 2015-2020, un saluto e un ringraziamento a Francesco della fabbrica occupata autogestita Boccaccio 003, la proiezione è a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 22 luglio 2021. Un in bocca al lupo e a presto! A presto, grazie mille a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e spero di vedervi alla proiezione accessa a Forte Prenestino. A presto, ciao! Con Carmelo Galati, uno dei curatori di Cinema City, a Palermo, terrazza sul mare di Sant'Erasmo, dal 26 luglio al 1 agosto 2021. Ben trovato. Ciao Federico, grazie ancora una volta per ospitarci, grazie davvero. Si tratta di una rassegna cinematografica, ce la presenti? Mi fa piacere intanto fare una piccola premessa, perché dopo questi mesi, insomma, di restrizioni, finalmente, nonostante le difficoltà e la fatica, ritorniamo a riunirci, a guardarci, a fare esperienza collettiva, che è quello che ci interessa, e vedere un po' di cinema insieme sotto le stelle del cielo di Palermo. Quest'anno cresciamo sia in qualità che in quantità, mi permetto di dire, perché dopo le prime edizioni, 3 proiezioni, 5 proiezioni, quest'anno facciamo il doppio salto e facciamo 14 proiezioni, saranno 7 le serate. La grande novità sono le 2 collaborazioni prestigiosissime con Rai Cinema Channel e col Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia, perché in testa ad ogni film in programma ci sarà un cortometraggio. Le prime 5 serate vedranno i corti finalisti dei Davide di Donatello 2021 e le ultime 2 serate 2 film corti inediti di giovani allievi della scuola. Il 26 abbiamo l'esordio di Ficarra e Picone con Nati Stanchi, con un video contributo del duo comico, forse ci sarà anche una piccola sorpresa, potrebbe arrivare a presentare la serata, salvo Ficarra. Il secondo giorno abbiamo Mediterraneo, un omaggio al premio Oscar, e verrà a Palermo a presentare la serata il grande Enzo Monteleone, premio Oscar per la sceneggiatura del film. La terza sera facciamo un bellissimo omaggio a un nostro autore palermitano poco conosciuto, in questo momento il suo film è in piattaforma, lo si può vedere soltanto in televisione, e questa è una grande battaglia che stiamo facendo per ritornare a vedere i film al cinema, sul grande schermo. E sarà questo film femminista che si chiama Il mio corpo vi seppellirà, un film su delle brigantesse nella Sicilia dell'Ottocento. Ci saranno Giovanni La Parola, Domenico Centomore, lo scenografo Marcello Di Carlo, tutto un impianto palermitano. A seguire avremo il bellissimo omaggio a Nino Manfredi, a 100 anni dalla nascita del grande Nino nazionale, e faremo il bellissimo C'eravamo tanto amati di Ettore Scola,

Facebook, la pagina Facebook, Instagram, e con anche diversi incontri, cosa sarà possibile visionarli anche sul nostro canale YouTube. Appuntamenti con il Festival dell'Animazione Autoriale Animafix Streaming Experience Live a Bagheria dal 27 luglio al 1 agosto 2021 e Young online dal 12 al 15 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Rosalba Colla. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, vive il lupo. Arrivederla, a presto. Con Barbara Goretti, curatrice del volume Cinecittà, un patrimonio aperto, uscito lunedì 21 giugno 2021. Barbara, ben trovata. Ciao Federico, buonasera. Che lavoro è questo? È un lavoro molto significativo per Cinecittà si mostra e Istituto Luce, che chiaramente lo promuove e a cui si deve anche la realizzazione, perché racconta 10 anni di attività espositiva permanente negli studi di Cinecittà. Quindi uno sguardo un po' diverso su quella che è sempre la città del cinema, ma che in questi anni ha sviluppato un'attività espositiva e museale che si è evoluta nel tempo. Come si sono articolati gli studi appunto in questo periodo? Noi abbiamo iniziato nel 2011 e quest'anno appunto abbiamo festeggiato il 28 aprile, che è anche la data di inaugurazione di Cinecittà stessa, ai 10 anni della mostra, e abbiamo iniziato con un piccolo esperimento, anche se significativo perché curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con l'allora Cinecittà Studios, fino ad evolversi in mostra permanente, quindi a decidere che Cinecittà diventasse, oltre ad essere un luogo di produzione assolutamente attivo, anche un luogo di culturale. E durante questi anni si sono evoluti percorsi, si sono chiamati molti professionisti, costumisti, scenografi, associazioni come anche l'Associazione dei Direttori della Fotografia, l'Associazione Scenografi e Arredatori. Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo hanno curato l'ultima mostra stelliniana, quindi c'è stata un'evoluzione molto ricca e l'abbiamo voluta raccontare in un volume molto corale, perché è un volume che racconta tante fasi di realizzazione. In questo decennio quante mostre si sono alternate? Le mostre e le edizioni sono state almeno 6, più l'ultima mostra stelliniana, più il MIAC, che è l'ultima evoluzione di questo percorso espositivo, quindi siamo quasi ad una media di una mostra l'anno. La cosa importante è che il percorso è diventato permanente, perché tra una mostra permanente e una temporanea c'è una grandissima differenza. La cosa che mi piace ricordare è che questo libro presenta anche un lavoro sul patrimonio, cioè si chiama Patrimonio Aperto, non soltanto perché ricorda questo aprire i cancelli al pubblico, cancelli che sono stati chiusi per tanti anni al pubblico, ma anche perché un riferimento a questo sguardo su Cinecittà è l'opera di Umberto Eco, Opera Aperta, quindi guardare Cinecittà come un sistema organico di relazioni in cui gli sguardi si incrociano, si sovrappongono, dove c'è una stratificazione più complessa anche di quello che si può immaginare, quindi si parla dell'architettura di Cinecittà, del valore storico che rappresenta, sia da un punto di vista di bene culturale, quasi di monumento, sia da un punto di vista anche di simbolo italiano, ma poi ha un valore anche da un punto di vista di patrimonio materiale, per cui abbiamo presentato nel catalogo una sorta di catalogazione, la prima volta che si fa questo, della collezione permanente di Istituto Luce per quel che riguarda il patrimonio scenico, ossia costumi, elementi scenografici e oggetti di scena. La superficie espositiva di quant'è e come sono suddivise le aree? Parliamo di almeno 1000-1200 metri quadri di esposizioni, perché sono 3 palazzine diverse, una grande area verde anch'essa in parte espositiva perché sono collocate diversi elementi scenici. Abbiamo la mostra Girando Cinecittà, che inizia il percorso dal 37 agli anni 90, abbiamo Backstage, che è la nostra mostra didattica per scoprire i misteri del cinema. Abbiamo Felliniana, che è la mostra appunto omaggio al centenario di Federico Fellini del 2020, di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, e poi abbiamo tutto lo spazio del MIAC, dedicato appunto al Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, che racconta cinema ma anche radio e televisione. Quindi un ambiente molto articolato, molto grande. E poi una cosa importantissima, abbiamo i set, che sono in realtà nell'area produttiva della mostra, ma che, conservando la loro natura di luogo cinematografico, diventano anche, con Cinecittà si mostra, luogo fruibile di esperienza per i visitatori. Un elemento importante del volume sono le fotografie, che vanno dai particolari ai ritratti di attori ed attrici. Sì, abbiamo voluto unire fotografie di allestimenti passati e presenti, che potessero testimoniare questa evoluzione anche dell'allestimento stesso, ma nello stesso tempo unire anche alcuni esempi del patrimonio dell'archivio storico di Istituto Luce, no? È il patrimonio poi importantissimo fotografico e filmico, con attori e attrici, grandissimi protagonisti, che sono abbinati in questo libro, in maggior parte dei casi, a delle pagine di dediche degli stessi, come per Anna Magnani, per Audrey Hepburn, che hanno lasciato proprio una traccia autografa in un albo dei visitatori che abbiamo ritrovato poi da poco tempo in realtà, e che per la prima volta vengono ripubblicati, quindi anche questo è un elemento inedito che offre il libro. Quindi cerchiamo di rimettere insieme tutto quello che è il patrimonio disponibile, a una carrellata del patrimonio disponibile di Istituto Luce Cinecittà. Dal punto di vista iconografico, la doppia idea che dà subito all'occhio questo volume è, da un lato, quello di un'enorme bottega artigiana e dall'altro una galleria altrettanto enorme d'arte. Sì, in effetti è uno sguardo un po' insolito anche su Cinecittà, no? Perché, come avrai probabilmente notato, non ci sono immagini tratte dai film, perché non volevamo fare questo. Questo è stato fatto tante volte, ci potrà fare e continuare a fare in futuro, però volevamo proprio raccontare i misteri del cinema e anche riflettere su quanto in realtà il patrimonio scenico, una volta rimasto, crei un valore enorme, che ha una difficoltà da una parte di essere conservato, perché chiaramente per dimensioni materiali e per la sua funzione non si presta a questo, no? Mentre l'opera d'arte di fatto poi nasce per essere poi esposta. E nello stesso tempo, però, ormai questi manufatti così importanti, penso alla Slitta di Ludwig di Visconti di Mario Chiari, che è pubblicata per la prima volta, penso alle sculture di Fellini, Gianni Genese, hanno una vita anche fuori dall'opera filmica. Credo che sicuramente questi elementi o i costumi di Donati prendono vita nel film, sicuramente questo è il loro scopo, però poi, tolti da questo, rimangono e lasciano un sapore, un fascino che davvero va riscoperto, e questo è quello che ha cercato di fare Cinecittà si mostra, anche dando omaggio a tanti costumisti, tanti scenografi e anche a tutte le sartorie, le attrezzerie sceniche che lavorano per la realizzazione di un film. Quindi in questo senso è anche un omaggio veramente a tutti quelli che lavorano per la realizzazione di un film, tutta la grande artigianalità e la capacità artistica. In chiusura, per saperne di più, ci dai tutti i riferimenti internet? www.cinecittasimostra.it, la mostra è visitabile tutti i giorni, il libro è acquistabile sul sito di Sfira, sul nostro bookshop online e anche chiaramente in loco da noi e in tutte le librerie. Un'ultima cosa, se mi permetti Federico, la copertina, perché è stata realizzata appositamente per noi dal grande Renato Casaro, che è il più grande cartellonista vivente, e quindi il catalogo stesso è un po' un'opera d'arte ed è un omaggio grande a Cinecittà e al cinema. Il libro Cinecittà, un patrimonio aperto, uscito lunedì 21 giugno 2021, saluto e un ringraziamento alla curatrice Barbara Goretti. Un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie sempre Federico, un saluto!